Al-Mu'minun, i credenti. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Qad aflaha al-mu'minun. In vero, prospereranno i credenti. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Quelli che sono umili nell'orazione. Walladhina hum 'anil lawi mu'ridun. Che evitano il vaniloquio. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Che versano la decima. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. E che si mantengono casti. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Eccetto che con le loro spose e con schiave che possiedono. E in questo non sono biasimevoli. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Mentre coloro che desiderano altro sono i trasgressori. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Che rispettano ciò che loro è stato affidato, i loro impegni. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Che sono costanti nell'orazione. Ulaika humul warithun. Essi sono gli eredi. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Che erediteranno il giardino dove rimarranno in perpetuo. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. In verità, creammo l'uomo da un estratto di argilla. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Poi ne facemmo una goccia di sperma posta in un sicuro ricettacolo. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. Poi di questa goccia facemmo un'aderenza e dell'aderenza un embrione. Dall'embrione creammo le ossa e rivestimmo le ossa di carne. E quindi ne facemmo un'altra creatura. Sia benedetto Allah, il migliore dei creatori. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. E dopo di ciò, certamente morirete. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. E nel giorno del giudizio sarete risuscitati. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. In verità creammo sopra di voi sette cieli e non siamo incuranti della creazione. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. E facemmo scendere l'acqua dal cielo in quantità misurata e la mantenemmo sulla terra anche se abbiamo la capacità di farla sparire. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. E per suo tramite produciamo per voi palmeti e vigneti in cui trovate i molti frutti che mangiate. Come quest'albero che sorge dal monte Sinai, che vi offre olio e condimento per i vostri cibi. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. In vero, anche nel bestiame vi argomento di meditazione. Vi diamo da bere di ciò che è nel loro ventre e ne traete molti vantaggi. E di loro vi cibate. Viaggiate su di essi e sui vascelli. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Già inviamo Noè al suo popolo. Disse loro: «O popolo mio, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio che Lui. Non lo temete?» فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Allora i notabili della sua gente, che erano miscredenti, dissero: «Costui non è che un uomo come voi. Vuole solo elevarsi sopra di voi. Se Allah avesse voluto che credessimo, avrebbe fatto scendere degli angeli. Ma di questo non abbiamo mai avuto notizia, neppure dei nostri antenati più lontani». إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Certo, costui non è che un uomo posseduto. Osservatelo per un po' di tempo. قال رب انصرني بما كذبون. Disse Noè: Signore, aiutami, mi trattano da impostore. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Perciò gli ispirammo: costruisci un'arca sotto i nostri occhi, secondo quello che ti abbiamo ispirato. Poi, quando giungerà il decreto nostro e ribollirà la fornace, allora imbarca una coppia per ogni specie e la tua famiglia, eccetto colui contro il quale è già stata emessa la sentenza. E non mi rivolgere suppliche in favore degli ingiusti. Saranno annegati. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Quando poi vi sarete sistemati nell'arca, tu e coloro che saranno con te, di: sia lodato Allah che ci ha salvato dagli ingiusti. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. E di: Signore, dammi approdo in un luogo benedetto. Tu sei il migliore di coloro che danno approdo. Inna fi zalika la ayatin wa in kunna la mubtalin. Questi certamente furono segni. In verità noi siamo colui che mette alla prova. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. E dopo di loro suscitammo un'altra generazione. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Alla quale inviammo un messaggero dei loro affinché dicesse: adorate Allah, per voi non c'è altro Dio all'infuori di Lui. Non lo temerete dunque? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثل بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. I notabili della sua gente, che erano miscredenti e che negavano l'altra vita, quelli stessi ai quali concedemmo gli agi in questa vita, dissero: costui non è che un uomo come voi, mangia ciò che voi mangiate e beve ciò che voi bevete. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Se obbedirete a un vostro simile, sarete certo tra i perdenti. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Davvero vi promette che quando sarete morti, ridotti a polvere e ossa, sarete risuscitati? هيهات هيهات لما توعدون. Lontano, lontano è ciò che vi viene promesso. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. Non esiste altro che questa nostra vita. Viviamo e moriamo e non saremo risuscitati. In huwa illa rajulun iftara ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Non è altro che un uomo che ha inventato menzogne contro Allah, e noi non gli presteremo alcuna fede. Qala rabbi ansurni bima kallabun. Disse Hud: Signore, aiutami, mi trattano da impostore. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Rispose Allah: ben presto se ne pentiranno, è certo. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Li colpì il grido in tutta giustizia e li rendemmo come detriti portati dalla corrente. Periscano per sempre gli ingiusti. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِ بعدهم قرونا آخرين. Dopo di loro suscitammo altre generazioni. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Nessuna comunità anticiperà o ritarderà il termine suo. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Inviammo i nostri messaggeri in successione. Ogni volta che un messaggero giunse a una comunità, lo trattarono da impostore. Facemmo sì che si succedessero le une alle altre e ne facemmo argomento di leggende. Periscono per sempre le genti che non credono. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Quindi inviammo Mosè e suo fratello Aronne coi segni nostri ed autorità evidente. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. A Faraone e ai suoi notabili, che si mostrarono orgogliosi. Era gente superba. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Dissero: dovremmo credere in due uomini come noi, il cui popolo è nostro schiavo? فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Li tacciarono di menzogna e furono tra coloro che vennero annientati. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. Già demmo il libro a Mosè affinché seguissero la retta via. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. E facemmo un segno del figlio di Maria e di sua madre. Demmo loro rifugio su un colle tranquillo e irrigato. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. O messaggeri, mangiate quello che è puro e operate il bene. Sì, io conosco bene il vostro agire. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. In verità questa vostra comunità è una comunità unica e io sono il vostro Signore. Temetemi dunque. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Ma essi si divisero in sette e ogni fazione si gloria di ciò che possiede. فذرهم في غمرتهم حتى حين. Lasciali immersi nella loro situazione per un certo periodo. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. Credono forse che tutto ciò che concediamo loro, beni e prole, نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. sia un anticipo sulle buone cose della vita futura? Certo che no, sono del tutto incoscienti. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. In verità, coloro che fremono per il timore del loro Signore, والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. che credono nei segni del loro Signore. والذين هم بربهم لا يشركون. che nulla associano al loro Signore. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. che danno quello che danno con cuore colmo di timore, pensando al ritorno al loro Signore. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Essi sono coloro che si affrettano al bene e sono i primi ad assolverlo. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Non carichiamo nessun'anima oltre ciò che può portare. Presso di noi c'è un libro che dice la verità, ed essi non subiranno alcun torto. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. Ma a proposito di questo Corano, i loro cuori sono distratti. Ci sono azioni verso le quali gli iniqui andranno inevitabilmente. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. Quando poi colpiamo col nostro castigo i più agiati tra di loro, lanciano grida d'angoscia. لا تجأروا اليوم إنكم من لا تنصرون. Non gridate oggi. Nessuno vi proteggerà da noi. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. Quando vi erano recitati i miei segni, volgevate le spalle. مستكبرين به سامرا تهجرون. Gonfi d'orgoglio, li denigravate nelle vostre veglie. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Non hanno dunque meditato le parole di Allah? Forse è giunta loro qualche cosa che mai era pervenuta ai loro antenati? أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. Già conoscevano il messaggero. Perché poi lo hanno rinnegato?

Dicono piuttosto quello che già dissero i loro antenati. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Dicono, quando saremo morti e ridotti in polvere e ossa, davvero saremo resuscitati? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Ci viene promesso questo, come già fu promesso ai nostri avi. Non sono altro che vecchie storie. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Di. A chi appartiene la terra e ciò che contiene? Ditelo se lo sapete. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. Risponderanno ad Allah. Di, non rifletterete dunque? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Di, chi è il Signore dei sette cieli? Il Signore del trono sublime. سيقولون لله قل أفلا تتقون. Risponderanno Allah. Di, non lo temerete dunque? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Di, chi tiene nella sua mano il regno di tutte le cose? Chi è colui che protegge e contro il quale nessuno può essere protetto? Ditelo se lo sapete. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Risponderanno Allah. Di, com'è dunque che siete stregati? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Abbiamo dato loro la verità, ma essi sono dei bugiardi. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Allah non si è preso figlio alcuno e non esiste alcun Dio al suo fianco, che altrimenti ogni Dio se ne sarebbe andato con ciò che ha creato e ognuno di loro avrebbe cercato di prevalere sugli altri. Gloria ad Allah, ben oltre quello che affermano. Alimil ghaibi wash-shahadati fata'ala amma yushrikun. Egli è il conoscitore del visibile e dell'invisibile. Egli è ben più alto di quanto gli associano. قل رب إما تريني ما يوعدون. Di, mio Signore, se mai mi mostrerai quello che hai promesso loro. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. Ebbene, mio Signore, non mi annoverare tra gli ingiusti. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. In verità, noi possiamo mostrarti quello che abbiamo loro promesso. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. Respingi il male con ciò che è migliore. Ben sappiamo quel che dicono. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. E di, Signore, mi rifugio in te contro le seduzioni dei diavoli. وأعوذ بك رب أن يحضرون. E mi rifugio in te, Signore, contro la loro presenza vicino a me. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Quando poi si presenta la morte a uno di loro e gli dice: Mio Signore, fatemi ritornare. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Che io possa fare il bene che ho omesso? No. Non è altro che la vana parola che egli pronuncia, e dietro di loro sarà eretta una barriera fino al giorno della resurrezione. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Quando poi sarà suonato il corno, in quel giorno non ci saranno tra loro più legami parentali e non si porranno più domande. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Coloro che avranno bilance pesanti avranno la beatitudine. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Ma coloro che avranno bilance leggere saranno quelli che avranno perduto loro stessi. Rimarranno in perpetuo nell'inferno. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Il fuoco brucerà i loro volti e avranno torte le labbra. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Non vi sono stati recitati i miei versetti e non li consideraste imposture? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Risponderanno: Nostro Signore ha vinto la disgrazia, eravamo gente traviata. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Signore, facci uscire di qui. Se poi persisteremo nel peccato, saremo allora davvero ingiusti. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Dirà: rimanetevi e non parlatemi più. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. In vero c'era una parte dei miei servi che diceva: Signore, noi crediamo, perdonaci e usaci misericordia. Tu sei il migliore dei misericordiosi. اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. E invece li avete scherniti al punto da perdere il ricordo di me, mentre di essi ridevate. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. In verità oggi li ho compensati di ciò che hanno sopportato con pazienza. Essi sono coloro che hanno conseguito la beatitudine. قال كم لبث ثم في الأرض عدد سنين. Dirà: quanti anni siete rimasti sulla terra? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Risponderanno: siamo rimasti un giorno o parte di un giorno. Interroga coloro che tengono il computo. Qala in labithtum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun. Dirà: davvero siete rimasti ben poco. Se lo aveste saputo. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensavate che vi avessimo creati per celia e che non sareste stati ricondotti a noi? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Si è esaltato Allah, il vero re. Non c'è altro Dio all'infuori di lui, il Signore del trono sublime. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. E chi invoca insieme ad Allah un'altra divinità senza averne prova alcuna, dovrà renderne conto il suo Signore. Certamente i miscredenti non prospereranno. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. E di: Signore, perdona e usaci misericordia. Tu sei il migliore dei misericordiosi.